Pacheco. Altre riemerse, sono sole, di soli, solitari passi, altri riemersi, e io rimango perso. Lune stringono manti scomparsi, altri riemersi, sole, dentro che affoga tra genti, soli passi, altri riemersi, e io rimango perso. Eclissi di me e te, lontana, troppo persa, sole dentro a una luna di passi persi. Passi persi, altri riemersi, io rimango perso.